9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your Buongiorno cari ascoltatori, continuiamo con questa maratona notturna che anche noi oggi abbiamo dedicato e stiamo continuando a dedicare al voto degli Stati Uniti. Come ovvio molti di voi, infatti un po' di ascoltatori dicono vabbè, insomma abbiamo capito, ha vinto, però forse non era così inatteso. No, come vedete dal voto popolare alla vittoria di Obama non era per niente scontata. Mitt Romney lo ha stretto, si vede molto più dal voto popolare, che è molto più ravvicinato tra i due rispetto che il voto elettorale che si fa con gli elettori stato per stato, dove invece c'è un gap molto forte di quasi 100 voti elettorali. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Romney in realtà aveva una situazione in cui poteva vincere, e invece la coppiata Romney-Ryan non è riuscita a mobilitare il cuore profondo. Si aggrava la possibilità per i repubblicani di stare anni a dieta con diverse elezioni di presidenti fuori dalla Casa Bianca. Si vede anche dal fatto che in Senato la maggioranza resta democratica e anzi i repubblicani sembrano arretrare. Sì, è vero, la Camera dei rappresentanti resta invece solidamente repubblicana, ma qui c'è un problema, lo avete già sentito se avete sentito le maratone notturne, gli ispanici, le donne, dal punto di vista della composizione etnica e di genere del voto, i repubblicani non riescono a interpretare le parti in ascesa nella composizione demografica e che sono più attive nella partecipazione al voto e che vengono rappresentate poi con nuovi eletti all'interno del Partito Democratico, e questo è sicuramente un problema. Questo spiega perché Romney è stato molto fermo, molto equilibrato nel concedere la vittoria, nel dire che bisogna unirsi, ma guardate, non sarà così, perché alla Camera dei Rappresentanti col piffero io credo che i repubblicani interpretino questo messaggio elettorale come un messaggio per far passare le proposte della Casa Bianca sul fiscal cliff, che è il vero grande ostacolo che spiega secondo me perché nel discorso di accettazione di felicitazioni con Michelle Obama, l'arma segreta poi vera di questo presidente, abbia deluso molti dei suoi fan. Anche in Italia vedevo i colleghi giornalisti che sono tutti eccitati per questa rielezione di Barack Obama. Io ho sperato che non ce la facesse, a dire la verità, ma tutti i colleghi giornalisti che dicono è moscio, come se fossero lì sul palco. È moscio perché l'America è in una condizione col suo debito pubblico, i tagli automatici che partono automaticamente perché di spesa pubblica, 50 miliardi per esempio di tagli pluriennali alla difesa, sugli oltre 600 miliardi di tagli che sono programmati automaticamente, se il Congresso non si mette d'accordo sul tema, che per i democratici è un incubo. L'incubo, la loro fissa è mai più dare ok agli sgravi fiscali a tempo di Bush, bisogna far pagare più le tasse a chi ha 250 mila dollari l'anno. Su questo io vorrei ricordare a chi è in ascolto che grazie alle aliquote più basse delle nostre, che sono da stato ladro rapinatore, in America l'1% dei contribuenti più ricchi paga il 40% del totale del gettito, a differenza che da noi, dove le aliquote molto progressive che piacciono ai più, magari anche a voi che siete in ascolto, sicuramente ai più dei miei colleghi, ottengono l'effetto paradossale che io apparterrei allo 0,7 più ricco del paese, che ovviamente è una presa per i fondelli, come ovvio. Su questo però da noi non si riesce mai a riflettere. Anzi, se mi consentite, io che oggi a quest'ora parlerei più d'Italia che di Stati Uniti, ma comunque detto questo vi invito a riflettere. L'unica cosa che faccio per non strappare la nostra programmazione comunque dedicata agli Stati Uniti sul fatto che in Italia le decisioni continuano a essere, mentre la Francia di Hollande decide un sia pur discutibile pacchetto di 20 miliardi di sgravi alle imprese per crescere di più, da noi le imprese continuano a non vedere il modo di riuscire a farsi pagare i 7 punti di PIL, il debito commerciale dello Stato. In compenso però i magistrati ottengono l'immediato rimborso dei tagli agli stipendi, quelli che la Corte Costituzionale ha cassato, o per loro, ma guarda un po', lo Stato i soldi ce l'ha subito, glieli restituisce, chiede scusa, anzi tra un po' gli diamo anche gli interessi, immagino che siano dovuti, per loro c'è tutto, per i signori in toga non si perde un giorno, per noi poveri microimprenditori hai voglia di aspettare anni. Comunque, torniamo con i nostri ospiti a capire alcuni aspetti che fino a questo momento non abbiamo sentito ancora nei commenti, come era ovvio. I commenti sono stati sull'avanzare del voto, poi si è capito che non bisognava aspettare neanche gli stati, quelli famosi che fanno la differenza, perché effettivamente negli stati precedenti attribuiti già Obama aveva belle che vinto. Ma tentiamo di capire adesso le conseguenze internazionali. Io ricordo che in questa settimana due sono gli eventi mondiali: oltre alla elezione della conferma di Obama, inizia il congresso del Partito Comunista Cinese giovedì. Non ci dovrebbero essere sorprese. Xi Jinping, cioè l'attuale vicepresidente, dovrebbe diventare presidente, Li Keqiang, che è l'attuale vice premier, dovrebbe diventare premier. È sicuro invece che insomma le scelte cinesi hanno un impatto insieme a queste americane. Dal fiscal cliff può derivare un freno purtroppo di cui non si avverte la necessità all'economia mondiale. Quello che è sicuro è che in Cina il tono economico è molto cambiato in questo 2012. Io devo riconoscerlo, sono rimasto molto impressionato nel vedere l'ultimo release, l'ultimo rilascio di voti da parte dell'Istat cinese, chiamiamo così, relativi all'ultimo trimestre di cui abbiamo ufficialmente i dati. Vedere che la componente dei consumi interni supera quella dell'export per valore aggiunto sul prodotto aggiuntivo cinese mi ha molto colpito, perché vuol dire che c'è un cambio di marcia in Cina sul consumo interno che testimonia appunto che il commercio mondiale è di nuovo in frenata, e sono molti segni anticipatori e indicatori di questo processo, il che per un paese che fa il più dell'output potenziale come noi dall'export non è un buon segnale, visto che abbiamo appreso che il 2013 sarà ancora un anno di recessione per questa povera Italia, che continua sui suoi giornali invece a dedicare paginate intere al tema che i grillini non vanno in televisione. Questo è il grande tema della politica italiana rispetto ai fondamentali dell'economia che hanno pesato e pesano in scelte come quelle dell'America e come quelle della Cina. Allora, sentiamo innanzitutto quali sono le impressioni, quali l'opinione di questo voto, ma soprattutto quali aspetti potrebbero mutare per la politica internazionale, per la politica di difesa, per i focolai che sono ancora accesi della diuturna guerra al terrorismo, per l'impegno in Afghanistan, per quello che riguarda la coda delle primavere arabe e così via. Abbiamo per questa prima parte internazionale dell'Obama bis Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, che saluto e che ringrazio. Buongiorno. Buongiorno. Allora Silvestri, cambia qualcosa per i capitoli fondamentali della politica estera, gli scacchieri a noi vicini, a cominciare da quello mediterraneo e Medio Oriente? Beh, naturalmente, essendo lo stesso presidente, penso che ci sarà un elemento di continuità molto forte, però lo stesso presidente ha la caratteristica di giocare il suo secondo termine, il suo secondo mandato, e non può richiederne un terzo. Per cui diciamo che è meno preoccupato della sua rielezione, e in quanto tale in genere tradizionalmente viene considerato più libero di agire, più indifferente alle spinte dell'opinione pubblica nei confronti della sua azione. Anche se naturalmente deve comunque tener conto del Parlamento, del Congresso, e deve comunque tener conto, suppongo, degli interessi del suo partito, che vorrà pur vincere le prossime elezioni comunque. Quindi diciamo, però è un po' più libero di agire. Questo cosa lo può portare? Ma io credo che forse una differenza di un certo rilievo potrebbe non con molto molta prudenza potrebbe, sì. Potrebbe portarlo ad avere una posizione un po' più rigida nei confronti di Israele, e quindi anche nei confronti del probabilmente di Netanyahu e del governo israeliano, nel caso, ad esempio, sulla questione dell'Iran e della possibile azione militare israeliana contro l'Iran, forse anche nei confronti della Siria, dove però il problema è molto più difficile, perché non credo che comunque Obama voglia coinvolgersi militarmente in Siria, perlomeno non direttamente. Diciamoci la verità, però, è stato anche un presidente che, dopo il cambio di tono iniziale sul dossier medio orientale, l'intervento all'Università Al-Azhar al Cairo e così via, poi tutto l'entusiasmo molto mediatico sull'inizio delle primavere arabe, sì, l'era dei diritti, tutti sul tweet, eccetera, eccetera. Poi si è capito un po' che l'America in realtà non ha perso un po' il controllo, la regia di tutte queste cose, o no? Diciamo, questo è un po' una caratteristica di Obama, questo l'abbiamo capito, di essere entusiasmante all'inizio e meno nel proseguimento. Cioè di dare una grande immagine di persona che cambierà tutto e poi nell'applicazione essere molto molto più prudente e quindi è anche meno efficace, diciamo, di come si pensava avrebbe dovuto essere in una direzione o nell'altra. Quindi questa è sempre stata la caratteristica della sua presidenza e quella che tra l'altro gli rimproveravano buona parte dei suoi vecchi elettori, che forse non lo hanno rivotato o forse hanno rivotato in minore quantità della volta precedente. Comunque, diciamo che sì, non ha avuto grande successo, ma forse c'è anche un'altra ragione, che nella primavera araba gli alleati maggiori degli Stati Uniti sono risultati essere anche i paesi arabi più conservatori, dall'Arabia Saudita al Qatar, agli altri Emirati del Golfo, che hanno sì appoggiato la primavera araba, ma ne hanno appoggiato la parte meno democratica, diciamo nel senso classico del termine, bensì la parte islamica, che comunque ha contribuito al mutamento di regimi, però è nello stesso tempo anche una parte fortemente... Insomma, diciamo che se ne è accorto l'ambasciatore americano in Libia, Bengasi, ecco. Poveraccio, sì, quello è stato ucciso o comunque è morto in parte perché... La situazione libica rimane una situazione, malgrado l'intervento, malgrado l'uccisione di Gheddafi, eccetera, rimane una situazione largamente ancora ingovernabile, soprattutto, io non so se sia a causa tanto degli islamisti, anche se in parte anche a causa loro, ma in buona parte a causa del fatto che rimane un paese senza un centro effettivo. Oh, da questo punto di vista, andiamo invece alla sfida vera a questo punto delle due egemonie potenziali, ecco, di matrice diversa islamica nel Medio Oriente, perché se per diverse settimane si era temuto che Israele potesse irrompere nella campagna elettorale decisiva con un'azione nei confronti degli impianti atomici iraniani, poi grazie al cielo questa ipotesi non si è verificata, perché sarebbe stata mortale per l'economia mondiale. Nella realtà, giustamente, secondo me, lei aggiunge che nel bis di Obama sarà più duro nei confronti di Israele e delle sue... E questo significa però che probabilmente qui il conto nei confronti della carta atomica iraniana, solo la Turchia, a cui l'Europa negli anni ha sbattuto la porta in faccia, un po' aiutando Erdogan da questo punto di vista, il suo partito musulmano laico, è solo la Turchia la vera possibilità di riequilibrarla, quella partita, o no? In qualche misura è così, anche, devo dire, la Turchia è anche da questo punto di vista un riequilibratore a suo modo, perché è sì, diciamo, alternativo all'Iran, ma è nello stesso tempo anche un paese che vuole distinguersi dall'Europa e dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Ricordiamoci che aveva tentato delle mediazioni, ad esempio, contro, in cui il governo, l'amministrazione Obama si era opposta. Quindi è comunque un paese che tiene a una sua linea nazionale, che non è necessariamente coincidente con quella voluta dalla Casa Bianca. Ricordiamoci che in Turchia, mentre in Europa la popolarità di Obama era quasi imbarazzante, in Turchia la popolarità di Obama è estremamente bassa. Sì, devo dire che in questo gli errori, secondo me, dell'Occidente nei confronti della politica turca tra Europa e Stati Uniti, non saprei dire quali sono stati più gravi, perché io mi sono battuto banalmente perché l'Italia, ma forse quelli europei, ma anche così, quelli americani, perché io mi sono battuto banalmente perché l'Italia capisse perché che la posizione franco-tedesca di dire no cari turchi, voi fuori, era un errore colossale per quello che sarebbe successo nel Mediterraneo. Però insomma siamo in queste condizioni. Invece dal punto di vista di Silvestri, per la Cina è indifferente questa conferma democratica, perché tradizionalmente il Partito Comunista Cinese preferisce i repubblicani, si intende meglio con i repubblicani. In genere sì, però diciamo finora c'è stato un po' un balletto, un po' di esitazione. Diciamo che i rapporti Stati Uniti-Cina sono andati a singhiozzo. Ci sono stati momenti di cooperazione, elementi di cooperazione e momenti di confronto. Non tutto per colpa degli Stati Uniti, anche per colpa della dirigenza cinese, che sembra oscillare di volta in volta nelle sue posizioni. Vedremo se dal congresso del Partito Comunista Cinese adesso uscirà una linea definitivamente più chiara di quella che sarà la politica cinese. Secondo me sarà difficile, perché in realtà la politica cinese continua a essere stretta in una contraddizione tra una volontà di continuare lo sviluppo economico, il commercio internazionale, l'integrazione nel sistema economico internazionale e così via, e una volontà egemonica in particolare sull'Asia e su tutta l'Asia che la circonda, che è poi gran parte dell'Asia stessa, che è altrettanto forte e molto nazionalistico. E quindi tra questo suo nazionalismo politico, che sostituisce forse in parte il vecchio ideologismo comunista, ma comunque è molto forte, e questo suo globalismo economico, tra queste due cose secondo me ancora la dirigenza cinese sta dibattendosi. E questo rende molto complicato il rapporto. Gli americani hanno un po' il problema che da un lato temono la Cina come concorrente economico, però nello stesso tempo gli fa molto piacere che essa continui a investire nel loro debito pubblico, e dall'altro temono la Cina come concorrente militare, come concorrente di potenza, però questa è anche una delle chiavi per la loro presenza in Asia, perché è una delle ragioni per cui tanti paesi, dall'Indonesia all'India e così via, ancora hanno una posizione abbastanza filoamericana, proprio perché temono un eccesso di predominanza cinese. Allora, io ringrazio in questa prima parte Stefano Silvestri, che è stato con noi. Nel frattempo qualche flash, perché vedo che cresce dai nostri ascoltatori la cosa di dire: ma sì, va bene, d'accordo, però l'Italia non è che abbiate tutti i torti, a dirvi la verità, perché pensate a ieri quello che è successo con il Blitz al premio elettorale elevato al 42%, il signor Casini che insomma si prepara la possibilità, da quello che capisco, di avere elezioni a mani libere da parte degli elettori italiani, per mettersi meglio d'accordo poi con chi fosse in testa, preferirebbe credo il PD, però di sicuro, secondo me, non è un passo avanti non avere un meccanismo che vi consenta e ci consenta come lettori di capire, di dare una mano con la nostra scelta a individuare chi governa. Però questa è la grande paura dei partiti, che oramai pensano solo, ve l'ho detto, a grillo, e trovano le misure per dire che è il Movimento 5 Stelle il nemico dell'Italia, come se non l'avessero rovinata loro l'Italia invece. In più è saltato anche il residuo anonimato dello scudo fiscale, nel senso che su questo lo Stato, come sempre, non ha rispettato la parola che vi avevo dato. Per chi di voi avesse fatto ricorso allo scudo di Tremonti per rilegittimare e reimportare in Italia capitali che avete all'estero, perché sia la conferma ufficiale, le banche fiduciarie trasmettono alle entrate tutti i dati dei vostri conti correnti, quindi fanno emergere tutti i dati scudati sui quali in Parlamento i governi vi avevano detto, mentendo come sempre, che avrebbero rispettato l'anonimato che vi avevano promesso. Vi siete fidati dello Stato? Ben vi sta, cari amici in ascolto, perché se non riuscite a capire che lo Stato italiano su questo mente sistematicamente per affondare le mani esclusivamente dove trova, beh, non so a che cosa abbiate pensato negli ultimi decenni. Ancora un'altra notizia che valeva la pena approfondire oggi: la conferma che il tanto atteso pacchetto Giavazzi per tagliare i contributi e trasferimenti alle imprese, e questa è una radio Confindustria, ma sapete che Confindustria ha detto: purché ci abbassiate di qualcosa per tutti il cuneo fiscale, fate saltare queste decine di miliardi di euro di cui parlava Giavazzi. Avevamo appreso che erano una trentina di miliardi i trasferimenti, tutto compreso nella forma più ampia, compresi quelli veicolati dalle regioni. Giavazzi ha detto almeno 12 miliardi e alla fine invece il governo ne taglia meno di 500. Sapete perché? Perché naturalmente il più di quei trasferimenti sono ai colossi pubblici, sono alle ferrovie, sono alle poste, una certa parte sono anche all'ANAS, sono a Finmeccanica. E quindi, come sempre, lo Stato prontissimo a tagliare le cose vostre, a non rispettare la parola che ha dato a voi, ma quando si tratta di tagliare i contributi e i trasferimenti alle imprese sue, non se ne parla nemmeno. E questa è la differenza di cosa vuol dire la politica italiana. Pensiamo all'America, va, che così ci distraiamo ancora mezz'ora, poi domani torneremo ad affondare le braccia in questo mare di melma che è la politica del nostro paese. Con noi per esaminare un po' di aspetti economici internazionali, l'impatto sull'Europa, ma un po' di aspetti anche economici che aspettano l'America, perché gli impulsi che dà con la sua politica monetaria, con la sua Fed, con i suoi anni e anni di deficit, che naturalmente pubblici, che lei si può permettere perché al dollaro, il tallone monetario in cui si misurano le commodities mondiali e le riserve mondiali, noi col piffero che potremmo in Europa permetterci deficit pubblici per tanti anni di quelle proporzioni. Pensate che Obama da solo ha fatto il più del 50% aggiuntivo di tutto il debito pubblico che ha ereditato dopo 220 anni gli Stati Uniti. E però, come sapete, il premio a rischio sovrano che paga i titoli del debito pubblico americano è praticamente quello tedesco. Beh, del resto, quando si è l'America ce lo si può permettere. A parlarne c'è la mia ministra, super ministra dell'economia ideale, adesso si offende magari, ma questo è di sicuro come la penso io, chi è, lo sapete, ogni tanto la richiamiamo, insegna alla Goethe University di Francoforte, la professoressa Esther Faia. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a lei. E l'ho fatta sorridere, almeno tra poco sarà meno cattiva con i suoi studenti, visto che inizia la lezione tra poco, perché dovete sapere che io, quando vedo gli italiani all'estero, trovo che insegnano molto di più di quanto facciano i miei autorevoli colleghi ordinari nel nostro paese, che, ricordo a tutti, a proposito di difetti italiani, hanno un impegno a non superare i più di loro 250 ore di insegnamento l'anno. Questa è l'amara verità con il quale siamo alle prese nel nostro paese. Allora, professoressa, ci dice un po', secondo lei, che, da quello che ha capito, cosa ci aspetta per il fiscal cliff americano? Che ripercussioni ci saranno se i repubblicani, come io un po' prevedo, punteranno i piedi, e quindi, insomma, per qualche mese qua rischiamo di non capire qual è la via, se spese o tasse, con cui l'America affronta l'enorme debito pubblico, e che conseguenze può avere questo a casa nostra in Europa? Dunque, credo che questa in realtà sia proprio la variabile più incerta su cui è molto difficile fare una previsione. Cioè, è ovvio che verso la fine dell'anno dovranno in un modo o nell'altro prendere una decisione, perché se diciamo, se si raggiunge il momento in cui bisogna tagliare le spese o alzare le tasse, una delle due cose andrà fatta. Sappiamo bene che la differenza tra i due è che Barack Obama vuole, diciamo, tagliare delle spese come quelle militari, mentre i repubblicani vogliono ridurre le tasse, e sappiamo ugualmente che il programma economico di Mitt Romney è stato criticato perché il suo taglio delle tasse, il taglio previsto delle tasse a, diciamo, le fasce più ricche era assolutamente poco credibile, era assolutamente incompatibile con l'arrivo del fiscal cliff. Direi che è molto difficile stabilire che cosa faranno. C'è un rischio molto forte che non si mettano d'accordo, e in quel caso, diciamo, se comincia, diciamo, una forma di speculazione anche sul debito americano, questo può avere delle conseguenze in Europa. Invece, voglio dire, si pensava che poi alla fine Obama costasse più caro l'ennesima sua riforma sanitaria. Le riforme sanitarie negli Stati Uniti sono sempre un punto dolente, lo fu anche per Clinton all'inizio, quando l'affidò alla moglie Hillary, poi Hillary si è ripresa ma toccando altri dossier, stando ben lontani da quelli. Però in definitiva invece mi pare che la pinguedine, per così dire, se mi passa il termine, delle conseguenze in termini di spesa pubblica nei decenni a venire, se non viene ritoccata, dell'intervento invece sanitario di Obama, alla fine non solo non sia dispiaciuta agli americani, ma anzi venga confermato questo impianto. Diciamo che le conseguenze sulla spesa pubblica sono ancora difficili da valutare, quindi ci vogliono un po' di anni per vedere effettivamente. Poi soprattutto il rischio è che, diciamo, in periodi di crisi sicuramente ci possono essere molte più persone che finiscono per utilizzare la sanità, perché tipicamente magari le condizioni di salute possono peggiorare, e quindi sugli anni si può vedere un aumento della spesa. Era sicuramente un sistema che andava riformato, così com'era non andava bene. Loro si sono avvicinati di più a dei sistemi europei come quello tedesco, quindi, diciamo, imporre diciamo più su vasta scala un'assicurazione obbligatoria. La critica era quella che riguardava se effettivamente le compagnie che fornivano assicurazione sarebbero state in un regime di competizione o meno, ma questa è una cosa che bisognerà vedere con gli anni, se dopo un po' di tempo queste, diciamo, le compagnie di assicurazione si metteranno d'accordo, faranno un cartello su dei prezzi alti oppure no. È molto difficile da stabilire adesso. Sicuramente in un periodo di crisi il popolo americano ha apprezzato una forma di aumento dello stato sociale. A questo proposito, io ricordo a chi ci è in ascolto che, come impatto sulla finanza pubblica americana, dopo Medicare, che è una roba che fa quasi 500 billion, ma il secondo programma di assistenza pubblica americana per impatto sul bilancio sono quelli che si chiamano i food stamps, cioè praticamente chi ha bisogno dei bollini pubblici per mettere insieme pane companatico, che pesano per quasi 80 miliardi di dollari. Quindi questo dà l'idea di una America in cui si continua a stare male economicamente. Naturalmente però in chiave europea, vedere che un paese si considera con un'economia molto debole, per poco non è rischiata nei voti popolari la rielezione di Barack Obama, quando invece ha un tasso di crescita che continua a essere, insomma, quasi più vicino al 2% che all'1,5%, dal punto di vista europeo è un sogno. Perché questo paradosso? Beh, il paradosso è fortemente legato al fatto che c'è questo fenomeno che gli americani chiamano jobless recovery, cioè ripresa senza lavoro, ma che ormai, secondo molti economisti europei, sta diventando sclerosi. Cioè, la popolazione americana sta male perché il tasso di disoccupazione è ancora troppo alto, e perché anche le persone che lavorano hanno lavori part-time mal pagati. Quindi chiaramente le condizioni sociali per la gran parte della popolazione, soprattutto la classe media e bassa, non sono buone. Il problema è che questo tasso di disoccupazione sta diventando cronico, così come era in Europa durante gli anni 80 o anche inizio anni 90, per una ragione diversa. Cioè, in Europa lo era la sclerosi del mercato del lavoro, c'era perché c'erano dei forti costi di licenziamento e quindi le imprese non assumevano. Il mito americano è che se tu elimini i costi del licenziamento dovrebbe essere facile assumere, quindi nel momento in cui c'è la ripresa le imprese dovrebbero ricominciare immediatamente ad assumere. Questo non si sta verificando, e non si sta verificando perché fondamentalmente il mercato americano è ancora pieno di rischi, non si è ancora fatta una riforma seria finanziaria, non si è ancora fatta una riforma seria del mercato del lavoro, e lo stato sociale è ancora molto disorganizzato. E infatti uno dei problemi dei piani economici di entrambi questi presidenti, per questo che diciamo erano in un testa a testa e c'era molta indecisione fino all'ultimo momento, è stato il fatto che i piani economici di entrambi non convincevano, perché Obama per 4 anni ha vissuto su misure di tamponamento della crisi di breve periodo, quindi ha pompato liquidità nel sistema, che come si sa può anche aumentare i rischi, ma non ha fatto nessuna riforma. E lo stesso Romney, il piano economico di Hubbard e Mankiw parlava di riforme di lungo periodo, ma di fatto non c'era nessuna riforma indicata a parte quella fiscale. Allora, molti strogano sul fatto che al 2014, quando bisognerà scegliere il nuovo presidente della Fed, proprio Glenn Hubbard potrebbe, il consigliere economico di Barack Obama, potrebbe essere un potenziale candidato a guidare la Fed al posto di Ben Bernanke. E insomma, Glenn Hubbard è stato in passato prodigo di qualche critica rispetto all'eccesso di liquidità. Che cosa bisogna aspettarsi su questo? Cioè, la Fed continua a inondare oceanicamente di liquidità, a comprare asset di svariati tipi, pubblici e privati, perché deve sostenere gli indici di borsa, con la scusa che alla borsa partecipano più del 50% degli americani, quindi bisogna sostenere la componente di reddito proveniente dalle attività finanziarie, cosa che però poi equilibra in senso molto lasco le politiche monetarie di tutto il resto del mondo. Altrove i politici non fanno altro che chiedere ai banchieri centrali qua in Europa: ma perché non prendete esempio da quei bravi americani che inondano il mercato di liquidità, che comprano tutti gli asset illiquidi e che se li tengono al balance sheet, la loro banca centrale e così via? Continua questa roba o cambia secondo lei? Guardi, diciamo che ci sono due cose. Da un lato, questa è la politica di cui Bernanke era convinto ed è tuttora convinto, cioè lui anche prima della crisi riteneva che diciamo andasse sostenuta, diciamo, anche prima della crisi, sia Greenspan che Bernanke, per quanto con delle strategie leggermente diverse, avevano fatto una politica monetaria espansiva. Credo che ormai sia abbastanza stabilito, ci sia una convinzione, anche se nei primi anni dopo la crisi questa visione era criticata, cioè il fatto che gran parte della crisi è stata generata dal fatto che c'era un eccesso di liquidità, quindi una politica monetaria troppo espansiva, e che questo aveva indotto le banche deregolamentate a usarla male. Questo è tuttora così, non a caso abbiamo visto che anche la scorsa estate c'è stato lo scandalo dell'Libor, e tuttora sentiamo, diciamo, continuamente problemi con effettivamente la regolamentazione bancaria e quello che le banche fanno. È anche vero che tutte le volte il problema dell'uscita dalla crisi si deve risolvere con delle riforme strutturali. Questo è vero in America ed è vero in Europa. C'è un problema di leadership, i leaders non stanno facendo da nessuna parte le riforme strutturali, quindi tutte le volte che ritorna lo spauracchio della recessione forte o della possibile depressione, ovviamente l'unica cosa che si può far intervenire velocemente è quella della politica monetaria. Quindi di fatto è quello di fatto che si fa anche in Europa, ma questo sta creando dei rischi che poi basta pochissimo, magari c'è un momento in cui basta un piccolo shock e salta tutto. Quindi sicuramente professoressa, la cosa deve cambiare. Professoressa, io voglio bene ai suoi studenti, ma torni un po' a occuparsi di cose italiane. Qui invece tra un po' ci troviamo un'alternativa, da una parte di chi vuole solo tassare e torchiare moneta, e dall'altra chi dice che l'euro l'hanno inventato i franco-tedeschi per tirarci una trappola. C'è bisogno un po' di questa concretezza, di cui questi spot, vi posso garantire, sono assolutamente molesti alla professoressa Fayan. Non ci sentiamo fuori che dalla diretta, quindi non sono con lei concordati, e anzi io chiedo scusa, ma io quando sento queste voci che mi sembrano di assoluto buonsenso e che in Italia sono minoritarie, perché il più dell'Accademia Italiana dice mano al torchio, ecco, invece giustamente dire che la crisi viene dall'eccesso di liquidità che da sempre invita all'azzardo morale, da sempre, come del resto un unico tasso di interesse su mercati non comunicanti è un invito all'azzardo morale, perché quando i mercati dei beni e dei servizi non sono uniti come in Europa, quello è il difetto, non che manchi il torchio monetario. Però io ringrazio la professoressa Esther Faia, sperando che i suoi studenti approfittino in bene di tutto ciò che invece noi poveri italiani ci priviamo col fatto che lei sia in Germania, e la risentiremo presto. E mentre anche oggi This is the end mi pare appropriato anche alla conferma di Barack, vabbè un po' pesante, ma come avrete capito io avevo sperato in un cambio di segno invece della politica soprattutto economica americana, è un cambio di segno pur essendo esplicito, non mi è mai sembrato che l'accoppiata Romney-Ryan fosse in grado di ottenere successo, ma come vedete invece la possibilità c'era. Nei voti elettorali si capisce che la possibilità di cambiare la politica americana c'era davvero, perché la delusione di un grande talento interpretativo ma di uno scarso leader attuativo, qual è sicuramente Barack Obama, consentiva tutto questo, ma non è avvenuto. E adesso poniamoci il problema di che cosa cambia, si cambia qualcosa per la politica europea, per Bruxelles, per Francoforte, per Berlino, per Parigi, con la conferma di Barack decisa dagli americani questa notte. E con noi Beda Romano, corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore. Io lo saluto e lo ringrazio, e la domanda gliel'ho fatta: cosa pensa che avverrà per l'Europa sui maggiori dossier che sono aperti? Ma credo che ci sarà fondamentalmente continuità. In realtà l'establishment politico europeo ha salutato la conferma di Barack Obama proprio in questo senso. C'era preoccupazione, secondo me, in molti governi per un eventuale cambio alla Casa Bianca. Non solo perché alcuni uomini politici europei erano dubbiosi su Mitt Romney, ma credo semplicemente perché in questa fase della politica internazionale molti pensassero che la continuità fosse necessaria. Credo che ci siano tre filoni che andranno seguiti nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Il primo filone naturalmente è la crisi debitoria europea. Sappiamo che gli Stati Uniti hanno una visione più attiva nei confronti dell'Europa, vorrebbero maggiore integrazione, sono convinti che si esce da questa crisi con uno slancio federale molto più forte, e in più di un'occasione non hanno esitato a criticare l'Europa. Dall'altra parte dell'Atlantico l'Europa non ha mancato di criticare la politica economica americana troppo basata sul debito. Il secondo filone è il filone commerciale. Stati Uniti ed Europa stanno discutendo in questo momento della possibilità di negoziare un accordo di libero scambio. Credo possa essere un dossier importante per i prossimi mesi, soprattutto se si decide in effetti di negoziare questo accordo. Ci sono ancora molti punti da risolvere, però è un aspetto economico, credo, che va seguito. E infine credo che ci sia anche la politica estera, soprattutto in Medio Oriente e nel Vicino Oriente, penso in particolare evidentemente a Israele, ma anche all'Iran, dove vi possono essere in futuro dei punti di contrasto. Ma si può dire che, estrapolando dalle parole che lei ha detto all'inizio di questa sua prima risposta, che ci fosse anche per Obama, nella valutazione dei leader europei, quelli veri dei paesi forti, una specie di considerazione che vale per molti in Italia, quando si dice: ma insomma, meglio che continui lui piuttosto che andare a provare una torta o un budino che potrebbe essere di esito incerto. È un po' così per l'Europa? Temo proprio di sì. L'Europa, ho l'impressione, viva con difficoltà questa fase con gli Stati Uniti, per diversi motivi. Prima di tutto perché, come dicevo prima, è incerta sulla bontà della politica economica americana. Gli Stati Uniti hanno sofferto la Grande Depressione e nessuno negli Stati Uniti ha dimenticato le code per la zuppa popolare negli anni 30. E quindi c'è in questa fase negli Stati Uniti una politica economica molto attiva basata sulla spesa pubblica. Questa politica economica ha permesso probabilmente agli Stati Uniti di evitare la depressione, ma evidentemente ha provocato un forte indebitamento dell'economia americana, e questa è preoccupante per l'Europa e non solo per la Germania, direi. Il secondo aspetto che innervosisce l'Europa nei confronti degli Stati Uniti è questa tendenza americana, soprattutto negli ultimi anni, a guardare soprattutto a ovest piuttosto che a est. A ovest per gli Stati Uniti significa guardare alla Cina. Poche settimane fa Hillary Clinton ha affermato che la politica estera americana è una politica estera che si fa in Asia. In Europa nessuno è rimasto indifferente da questa dichiarazione. L'Europa è preoccupata, evidentemente. Allora, per questa ultima parte delle conseguenze europee abbiamo avuto con noi Beda Romano. Io lo ringrazio. La maratona continua anche con Melog, e intanto restate ai nostri microfoni. Appuntamento con noi a domani.